Backstage Fest. Il rock and roll come nessuno ve l'ha mai raccontato. Aloha, sono Chuck Bird e questa volta sono qui per parlarvi dei Clash. La band sempre contro tutto e tutti. Una band attenta a non cedere mai ai compromessi e, ironia della sorte, diventando campioni della hit parade quando una nota marca di blue jeans decise di usare questa canzone come colonna sonora di uno spot e si parla di Should I Stay or Should I Go. Ma per farvi capire di che pasta erano veramente fatti Clash, vi racconterò una cosina che è successa alla band dopo che Mick Jones, chitarrista e membro fondatore, fu messo alla porta. Invece che chiudersi in una torre d'avorio, come accade alla maggior parte dei gruppi rock famosi, Clash decisero di scendere in strada, anzi in metropolitana. Joe Strummer, Paul Simonon e le tre nuove reclute, e Nick Shepherd, Vince White e Pete Howard, la formazione che avrebbe dato vita al deludente Cut the Crap, decisero di fare del busking, cioè suonare in acustico nei corridoi dell'underground di Londra e agli angoli delle strade delle principali città inglesi. Il momento migliore di questo tour non ufficiale, effettuato solo con chitarra acustica e una batteria composta da una sedia, fu a York, il 9 maggio del 1985. Attorno ai Clash si formò una folla di qualche centinaio di persone, tutte a cantare in coro i successi della band. I Clash non si sentirono mai così vicino al loro pubblico. E anche i Bobbies, i poliziotti, per una volta chiusero un occhio. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you've got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Decisions bugging me. Indecision me molesta. If you don't want me, set me free. Say me, yes, me. Exactly whom I'm supposed to be. Hey, don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Yes, yes, yes, yes. Should I cool it or should I blow? Backstage Fest.